Beam Busters! Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home. E allora, bentornati a Film Busters, questo è l'episodio 14 del podcast di cinema più fregno del mondo. È il 14! Crippio! Io sono Alex Dira e con me ci sono al solito il simpaticissimo Monco. Io sono il Monco e questo è il mio mondo. Sì, e Intrinseco. Ciao! Che ci parlano dal nord, dove la gente soffia nel microfono. Ce l'hanno. Ma parliamo di cose serie, per favore. Allora, oggi... Certo, ci vuole coraggio. Altra puntata ricca di film ridicoli. Ne abbiamo almeno 3-4 in apertura. Poi passeremo all'argomento principe di questo episodio, ovvero il reality di Garrone, che è più bello di Bella Addormentata di Bellocchio, vero? È il sottotitolo proprio. Sì, proprio hanno aggiunto, l'hanno appiccicato con lo scotch sulla locandina proprio. E secondo gol del Milan è Shaarawy. No, non ne parliamo di questo. Non distraiamoci. E quindi, non lo so, volete aggiungere qualcosa prima di partire con il treno dei film? Perfetto, il silenzio assoluto. Ah, vabbè, diciamo qualcosa sul successo dell'ultima puntata. Insomma, dobbiamo riscrivere un po' il nostro proverbio. Non è Batman che tira più di un carro di buoi, ma Prometheus. Pensa. Ha fatto il record di ascolti, l'episodio 13. È stato spammato un po' ovunque, grazie a alcuni nostri utenti. Anche sul forum di Radio Maria, Anche sul forum di Radio Maria, dove siamo stati tacciati di blasfemia. E niente, quindi insomma, se vi abbiamo anche aiutato nella comprensione di alcuni passaggi oscuri, specie con l'inserto che abbiamo fatto in coda al podcast, siamo contenti di questo. E non lo so, vi aiuteremo anche a capire reality, perché come abbiamo visto sul forum qualcuno non l'ha capito. Sì, ecco, apriamo una nuova rubrica. Se siete dei deficienti, scriveteci e noi vi spieghiamo i film, qualsiasi film. Magari senza il CD dei deficienti. La rubrica del deficiente, ce ne sono. Okay, perché ignorare, è un pubblico grande anche quello. La rubrica del sempliciotto. Ah, anche sì. Cioè più politically correct. Vabbè. E quindi dopo aver visto un paio di quadri di Rocco... Passiamo direttamente ai film, visto che ci stiamo già sfilacciando. Iniziamo con un horror dell'autore di Martyrs, che si chiama? Pascal Logier. Logier. Mi riferisco ai Bambini di Cold Rock, che se non sbaglio è stata una traduzione di quelle sciagurate italiane di un titolo diverso. Sì. Vabbè, ma non è così malvagio, dai. Non ai livelli di Se mi lasci di cancello, insomma. Sì, insomma, è evitabile, ma vabbè. E ok, quindi ce ne parla il Monco Intrinseco. E vai, infatti, tu esordisci dicendo tre schifezze, sono sconcertato, questo è uno dei film più interessanti dell'anno per me. Manco la vita. Sì, infatti sono stato cattivo, ma anche Magic Mike non è così schifezza. Vabbè. Silenzio, vabbè dai. Allora, i Bambini di Cold Rock, dai. E sì, insomma, che Resident Evil li tira tutti nel buco dello sprofondo. Insomma, sì, i bambini di Color Rock, il titolo originale è The Tall Man, è il titolo inglese, ma il regista francese emigrato, no beh, non proprio, comunque una coproduzione franco-canadese, quindi non è neanche proprio un horror americano, non si è venduto come, come il suo amicone Alexander Aja, come volete. Comunque una diva di Hollywood come Jessica Biel come protagonista, io ero preparato al peggio, anche vedendo la locandina che sembrava abbastanza... Non come il trailer dà un'idea sbagliatissima del film, quindi poi evitate di guardarli e di leggerli. E, quindi sì, regista emigrato, vi ricorderete di Martyrs, soprattutto gli appassionati, ma non solo, visto che se ne è parlato anche troppo, secondo me, di, come film, anche fuori dal genere, perché era una roba d'autore che tirava un pubblico nuovo. Io non li sopporto particolarmente questi torture porn, e quindi ho gradito molto questo I bambini di Color Rock, che al contrario di quello che sembra non è un horror, non lo è, non è in modo canonico, è più che altro un thriller, e mi fermo qui. E un riassuntino della trama, anche qui poco perché è un film insomma abbastanza misterioso e non voglio rovinarvelo. E, insomma, c'è questa Cold Rock, del titolo italiano, comunque il nome della città, che è un paese, una cittadina mineraria, che come nella tradizione degli horror, anche se non è un horror, è andata in rovina dopo la chiusura della miniera. Di solito quando una miniera chiude in un paese, in una città americana, esce fuori un mostro che uccide tutti, è sempre così, e anche qui c'è un mostro che però rapisce i bambini, anche con una certa cadenza regolare, ogni due mesi ne prende uno dalle case in cui sono al sicuro e li porta via e spariscono nel nulla. E un giorno, quando inizia diciamo, la narrazione, viene portato via anche il bambino della protagonista, Jessica Biel, che interpreta un'infermiera in questa Cold Rock, e lei è un po' più una mamma un po' più cazzuta delle altre, comunque una donna più forte, almeno l'apparenza, e decide di andarselo a prendere. Quindi appena capisce che questo Tall Man è entrato in casa e gli ha rapito il bimbo, si lancia in strada, lo segue e boh, mi fermo qui, non vi dico nulla. Soltanto che questa prima parte potrebbe tranquillamente essere un horror classico a sé, perché proprio è una sequenza che sembra la fine di un normale horror, invece qui è l'inizio di qualcosa di più. È un climax vero e proprio, una scena frenetica, veloce, e tu ti aspetteresti, oddio, ecco, ora crolla il ritmo, l'interesse finisce a zero, e boom, invece è solo l'inizio, appunto, è un susseguirsi di colpi di scena, diciamo, di climax uno sull'altro, di capovolgimenti, di sconvolgimenti dei punti di vista. Anche per questo è un po' difficile parlarne, perché il merito sta in quello che non posso nominare, in quello che non posso dire. E bello comunque questo, che insomma è scritto in modo diverso, non è un horror, è un horror in cui entra la morale, in cui entra un discorso etico, un po' entra l'emotività, che è difficile notare in questo genere, e niente, molto appassionante, molto avvincente, lo trovo davvero ben scritto, perché insomma, è facile piazzare il colpo di scena, più difficile è mantenere l'interesse dopo, prima e durante. E l'OGE ci riesce molto bene, sembra un progetto abbastanza sentito, che ha curato in tutto, e sì, si ritrovano un po' dei suoi punti comuni, come queste rivelazioni, questi scossoni nella trama, che si ritrovano anche più che altro in Martyrs, perché Saint-Ange non l'ho visto, quindi non mi esprimo, anche se credo sia abbastanza diverso. E mi è piaciuto molto, mi è piaciuto persino Jessica Biel, che insomma non ci avrei puntato un centesimo, invece è in gamba, più che altro si limita a imbruttirsi, però lo fa bene, insomma si muove bene. E la cosa che mi piace di più di questo film è che mi ha colpito abbastanza emotivamente, ti fa riflettere, ti fa interrogare su quello che hai visto, su quello che i personaggi provano, che non sono così monolitici. Sì, c'è un po' lo stereotipo del redneck, ecco, della cittadina povera, squallida, ingrigita, un po' ricorda Winter's Bone per i colori, anche una fotografia abbastanza pulita e con un colore che tende al freddo, comunque al bianco, nero, grigio e varianti. È molto coinvolgente, ecco, un finale davvero splendido, una sorpresa bellissima secondo me. Ecco, io, come ho detto, Martyrs l'ho quasi odiato, quel filone horror l'ho quasi odiato e prevenuto in modo cattivissimo, invece no, sono uscito stracontento, probabilmente uno degli horror, anche se ripeto, non è proprio un horror, migliori dell'anno e degli ultimi anni. Ok, il Monco so che l'ha visto, quindi immagino, tra l'altro anche visto che mi sembra che abbia una un'opinione nettamente diversa rispetto alla tua, vero? Pensate a un numero, moltiplicatelo per 2, aggiungete 6, dividete per 2, il risultato è, togliete il numero di partenza, il risultato è il voto che do a questo film. No, no, sto scherzando amici, sto scherzando, venite qua. No, non sono così entusiasta come il caro intrinseco. Sì, scritto bene, notevole il... vabbè, chiamiamolo colpo di scena, sì. Userei un altro termine, ma non lo dico. Però, non lo so, mi è sembrato un parecchio furbetto. Sono alcuni passaggi, proprio quando c'è questo colpo di scena, che non mi sono piaciuti molto. Potevano essere un po' più limati, però, vabbè, appunto, non lo so, forse sono stato troppo influenzato da Martyrs, cioè sono partito col dire ammazza, è un film di Loge, figuriamoci, e quindi, non lo so, forse vederlo più avanti, senza Martyrs così fresco, oppure comunque seguire ancora Loge, che sembra promettere bene quando non va a fare delle cazzate allucinanti, magari più avanti riuscirò a rivalutarlo meglio, però adesso sì, questa è l'opinione finale, non riesco né a promuoverlo in pieno né a... no, non merita la bocciatura, però sono lì, sono a metà strada, ecco. Ho capito. Beh, è importante una cosa, che sembra che spero che sopravviva alla trasferta, così detto, quando questi registi vanno in America o muoiono o perdono la loro poetica, anche se quella di Loge la perdo volentieri, però di solito si perde un po' lo stampo, invece per ora l'ha mantenuto, ecco, una sua autorialità. Ecco, a questo proposito. Non ho capito, già questa è una produzione statunitense o... No, ho detto franco-canadese. Quindi ancora non va a Hollywood, insomma. No, speriamo che la eviti. Però ho sentito che anche Red Lights, non mi ricordo che regista... Cortez, sì. Insomma, hanno detto che anche quella è abbastanza una cagatina. Oh sì, c'è questa tendenza, ma spesso gli dicono vieni qui, fai qualcosa che magari non è legato a lui, non è sentito, non è, c'è una sceneggiatura già pronta. Dai, come Asia, gli hanno fatto fare gli horror standard e poi ha fatto quelle cazzate lì, ci sguazzano, fanno i loro soldi, amen. Però anch'io non ho visto Sentenge, però lo metto un'altra volta, a sentire più o meno lo stile di quello e lo stile di questo, sembra quasi che l'intruso sia Martyrs, quindi Martyrs è una parentesi ed è Eloge è più su questo modo di fare, quindi non lo so, magari Hollywood lo instrada bene, cioè nel senso gli dà soldi per fare un film più bello, poi non lo so, magari niente, torna a fare cazzate ultra metafisiche su Dio e la carne, non lo so. Beh, è presto, l'ha scritto proprio lui, sì, l'ha scritto lui. Sì, questo è tutto, tra l'altro credo lo tenesse in banco da un po', probabilmente aspettava i soldi, anche perché è meno vendibile di una cosa come Martyrs, paradossalmente, che almeno potevi pubblicizzarlo come truculento, come forte. Questo è forte, ma in modo diverso, secondo me, cioè anche per questo si spiega la distribuzione. Distribuzione? Poco... Sì, assente più che scarsa. In Italia, ho sentito Ippolita che vive in città e quindi magari lo trovi, ma in generale credo non si sia visto. Tra l'altro in America è uscito da un bel po'. Ho capito. Ma il titolo è così affascinante, è così didascalico, non so, Magic Mike poteva uscire come I ragazzi nudi dello spogliarello, meglio di così, fai capire cos'è, no? Altro che Magic Mike o Tall Man, non so, il casellante dovevano chiamare. Anche se sì, o lo lasciavano Tall Man o tradurlo l'uomo alto. Però nel film lo chiamano così. Infatti, appunto, che poi non so se è un riferimento alla saga di Dan Coscarelli, Phantasm, dove il cattivo era il Tall Man, anche se non lo nominavano. A qualcuno piace che Alto lo potevano chiamare. Sì. Oppure lo Slender Man, vabbè, quello non c'entra niente. Noi siamo fissati con Slender. Sei l'imperatore della settimana scorsa. Esatto. Allora, non so se volete aggiungere qualcos'altro, immagino di no, perché... già stavate procedendo con le stronzatine. Dai, stringi, stringi. Stringi, stringi. Passiamo al piatto forte, dai. Sì, passiamo al piatto fortissimo della puntata, ovvero uno dei film più brutti dell'anno. Il più brutto. Il più brutto, sì, senza dubbio. Detachment sembra veramente un capolavoro a confronto. Stiamo parlando di Resident Evil Redemption. Retribution, Spanversion, non mi ricordo neanche più come si sottotitola. Sì, Retribution, esatto. Dai, è il brutto con un titolo orribile. Sì, è il quinto... Retribution, vabbè. Sì, immagino sia la traduzione letterale di retribuzione. Sì, sì, adesso, nel senso ora la dovete pagare tutta. Ah, per quello? Vabbè, sì, allora effettivamente c'ha un senso. Dicevo, parliamo quindi del quinto episodio della saga... tratta da il videogioco Resident Evil. Ah sì? Sì, che non si direbbe, non si direbbe, anche perché ormai ha preso una strada completamente diversa dal videogioco, e diretto stavolta da Paul, non da Paul Thomas Anderson, stavo cadendo nel terreno, no? Da Paul W.S. Anderson. W.S. non ho mai capito a cosa fa riferimento e sinceramente non ho West, tempo e voglia. West e South. Questa, va bene, ok. e niente, insomma, parliamo un po' della trama, di quella se c'è una trama effettivamente in questo film, è un po' difficile individuarla, comunque. Il film inizia, come ho scritto anche nella recensione, con una sequenza a rallenti e a ritroso, dove vediamo la protagonista sulla nave che si intravedeva nel finale di... o meglio, che era l'argomento centrale del precedente film, ovvero questa Arcadia, e all'orizzonte vediamo arrivare questi elicotteri della Umbrella pronti a distruggere tutto, quindi vediamo questa sequenza di distruzione andare all'indietro, e poi ovviamente ce la ripropone un'altra volta dopo i titoli di testa, penso a quasi fast forward, insomma, vabbè, insomma, ce la vede due volte. E niente, già la sequenza iniziale è emblematica di come sarà tutto il film. Io immagino che se non ci fosse stato l'abuso di rallenti, il film sarebbe durato qualcosa come mezz'oretta, credo. Però insomma, si parla di questa Alice, appunto, la protagonista, che è intrappolata in uno stabilimento della Umbrella al Polo Nord sotto il ghiaccio. E dove venivano effettuate delle simulazioni in ambienti urbani fedelmente riprodotti, e appunto è la scusa per cambiare in maniera repentina scenografia da Mosca, c'era anche Berlino, ma non credo che non ricordo se nel film viene mai ripresa la parte su Berlino, però si intravede in un grafico, comunque c'è New York, c'è Tokyo. E niente, insomma, quello che normalmente in un film di genere si prende lo spazio di una ventina di minuti, una mezz'oretta, ovvero la fuga dalla fortezza, qui prende lo spazio di tutto il film. Infatti, usciti da lì, immagino che debba ancora succedere qualcosa, invece il film finisce all'improvviso con l'attore che interpreta Leon Kennedy che mette la mano sulla coscia di Ada Wong. Attore grandissimo, come ho detto anche nella recensione, e niente, insomma, è una saga che da tempo ha perso i connotati dello zombie movie in genere. Il primo dava qualche speranza perché comunque era un bel filmetto di intrattenimento, già dal secondo, con questo abuso di rallenti e di pose plastiche, il ritmo della narrazione si sfilacciava. Adesso siamo arrivati a livelli veramente insopportabili. Ci sono questi bellissimi protagonisti, ogni tanto si fermano e si mettono in posa stile Power Rangers. Gli zombie quasi non ci sono più praticamente, anzi ce ne sono certi che tipo quando sono a Mosca, ce ne sono certi vestiti da cosacchi che sparano. Appunto, sparano, sì. Neanche più a Non si è capita quella cosa, sono zombie, cosa no, ma il fatto è questo, è che se poi se lo vai a dire a un appassionato della saga, io comunque gli ultimi due li ho giocati, effettivamente la saga adesso ha preso un'altra piega, da film da gioco survival horror adesso è diventata una sorta di gioco d'azione. Val qua, così. Sì, e praticamente però per ovviamente non puoi lasciare gli zombie in un gioco d'azione, perché fondamentalmente lo zombie lento non rappresenta una minaccia se puoi sparare sullo stile di Gears of War. E quindi hanno preso la palla al balzo, hanno creato un nuovo virus in cui appunto i contagiati si trasformano in qualcosa di diverso da un deambulante zombie. Un negro. E, sì, esatto. Nel 5 che è ambientato in Africa succede questo. E niente, quindi si trasformano in esseri che evidentemente possono maneggiare armi, possono guidare, perché effettivamente anche nel film si vedono dei blindati. E niente, insomma, sono scelte, sinceramente a me fa storcere il naso, immagino che anche a voi che siete persone di buon gusto l'abbia fatto storcere. In ogni caso non c'è più nessun sottotesto, non c'è più niente, non c'è più nessun elemento dello zombie movie, quale l'assedio, insomma, quale la sopravvivenza, non c'è più niente, è semplicemente un film in cui un protagonista invincibile, che si dice nel film abbia perso i poteri, ma effettivamente non è che mi sembra poi così scarsa, e questa protagonista invincibile che spacca tutto e tutti va avanti per forza d'inerzia e il film si trascina così, non è manco più divertente, perché non lo so, io ricordo il terzo in cui che era ambientato mi sembra tipo a Las Vegas, comunque sì, in un mondo post apocalittico che a parte qualche sequenza in cui lei bruciava gli uccelli poteva essere ancora divertente, questo non è manco più divertente. Ecco, anche questa scelta di mettere in piedi questo stabilimento in cui ci sono queste mega arene che rappresentano le varie città del mondo è una scelta tutto sommato suggestiva, però effettivamente viene il quanto di poco buono c'è si perde nel mare di merda di tutto il resto. Anche il fatto che sia un film fortemente didascalico, nel senso che ogni 10 secondi tutti quanti si fermano e la Regina Rossa, che è il villain del film, ci spiega per filo e per segno quello che succederà fra 10 secondi, insomma toglie anche quel briciolo di pathos che poteva crearsi dalla situazione di pericolo, ecco. Tra l'altro, quindi la base sotterranea della Umbrella è un enorme plot hole, perché scusa, come fanno gli operai a costruire sott'acqua, sotto l'acqua ghiacciata in quel modo? Questo è un film che non ha veramente capo né coda. Scusa. Ne parleremo in coda di tutti i plot hole di Resident Evil, sì. Ve lo spiegheremo perché ce n'è bisogno. Tutto perché? Perché non si fermano? Perché sì, ha uno suolo di appassionati abbastanza duro. Ma sono subdoli, sono subdoli, si nascondono quando vai a chiedere in giro, ma tu l'hai visto? No, no, che schifo. No, poi fa il record in casse. Io so che conducono dei sondaggi su Twitter dove poi decidono come fare il film, perché effettivamente qui hanno deciso che dovevano tornare alcuni personaggi morti sin dal primo episodio e quindi tornano sotto forma di cloni. Ma quanto è bella la scena dei cloni appesi stile giracravatta? Bellissima, l'avete visto quel film, no? Sì. Quando vedono i cloni tutti appesi alla catena di montaggio, guarda. Non lo so, ai ragazzi piace tutto, piace Fichetto, piace Grattachecca, solo un ragazzino piace Mister Muscolo. E niente, quindi non credo ci sia altro da dire su questo film. Ma ci fosse un film, ci sarebbe qualcosa da dire, non c'è nulla. Non è nemmeno un film, non mi tira più neanche Mila Jovovich, che una volta era una ragione per guardarle, ma non lo so. Sì, tra l'altro trovano sempre la scusa per buttarla nuda con due fogli di carta appiccicati. Sì, ma non mi fa più effetto neanche quello, ormai proprio la passione si è spenta, io non l'amo più, la deve smettere con queste cose. Ma sembra un maschio col fascino androgino. Ma quello è il mio problema, va bene, solo che ormai anche, non c'è neanche il gusto di vedere lei, cioè dopo mezz'ora di flashback, cioè di flashback di quella cosa che dicevi tu, cioè avanti e indietro, rivista due volte, un mega riassuntone, io dopo mezz'ora ero già stanco e non era neanche iniziato il film, cioè, non credo che questa sia la cosa più sbagliata che può succedere in un action, fare questo inizio che ammazza tutto quel poco che poi vabbè inizia il film e dici ah ok, però lì mi si erano già giocati all'inizio. Quando c'è la figa ti caghi in mano, Esatto. Allora, io ho preferito che ho preferito che continuasse quella scena dove c'è il clone di lei che si trova nella situazione di dover fronteggiare gli zombie in una delle arene, insomma. Suburbia. Sì, vabbè. Mi sembrava facesse parte integrante del film, invece è una scena di un minuto. No, ma fai solo quello, la Alice originale, lasciala perdere, perché ormai... Un reboot. Sarebbe stato un ennesimo film di zombie così, però almeno non era la merda che poi è diventato il film. Non sembra anche che stanno saccheggiando a destra e a sinistra, a parte quella scena lì che è paro paro, ma proprio identica all'inizio dell'Alba dei Morti Viventi. L'Alba dei Morti Viventi, sì. Ma tra l'altro saccheggiano anche all'interno, nel senso che ogni tanto ci stanno spezzoni che sono riproposizioni di film precedenti della saga. Sì, sì, ma anche... Proprio un saccheggio totale. Ma non lo so, sarà una cosa mia, però la motosega usata per ammazzare lo zombie viene subito in mente Dead Rising. Vanno a prendere qualsiasi cosa abbia tirato in ballo gli zombie, vanno a saccheggiare, tanto che gli frega. Non c'è una storia, vanno avanti a pezzettini con la colla e vanno fino alla fine. Tanto la gente va comunque a vederli. Vabbè, la gente va a vederli per i personaggi, perché... fanno i sondaggi e quindi... Sì, vabbè, ma proprio l'arroganza, cioè, neanche fosse una saga bella, ha solo avuto successo, però fanno l'autocitazionismo come, che ne so, nelle saghe di successo gradite, cioè fanno, ritirano fuori i personaggi, come dicevi tu, oppure la Regina Rossa che dice, morirete tutti, sì, l'uno, se lo ricordiamo, era l'unico bello, grazie. Sì, tra l'altro, buttiamola lì, in quanto è uscito, una settimana e mezza, ha già guadagnato in tutto il mondo 175 milioni di dollari. Freak. E ne è costati soli 65. Troppo. Cioè, rendiamoci conto. E vabbè, dai. E aspettiamo il 6, Sì, sì, anche perché il film termina col solito cliffhanger, quindi... aspettiamo il 6 come se fosse il messia. E tu volevi gli assedi, scusa, Tu volevi l'assedio di nuovo, Ora iniziano col primo, fanno il reboot. Sì. Vabbè. Sì, no, ricorda un po' il 2, quel finale, per cui sì, più o meno. Non me lo ricordo, io ricordo il 2, solo lei vestita malissimo e... Sempre vestita male. Vabbè, no, al primo, vabbè, stava un po' zecca, però fondamentalmente non era vestita malissimo. No, vabbè, era il giusto. E basta. Vabbè, dai, basta, cioè... no, l'unica cosa fedele al videogioco è il vestito di Ada, che dice, ma come fa a combattere, a muoversi con quel vestito? Almeno nel film cambia. Invece no, l'hanno tenuto fedeli. Bravi, bravi, bravi. Ci hanno messo un'attrice che è sproporzionata in tutto e per tutto, però sì. Ah, altro plot hole. Come fa con quel vestito mezza nuda a stare all'Antartide? Vabbè, queste sono proprio domande che... lasciamo perdere, va. Allora, dai, passiamo al prossimo film. Direi che ce ne può parlare il Monco, che so che l'ha amato in maniera viscerale, però non è diventato gay, a quanto mi risulta. Era già, no. Ok. E allora parlaci di Magic Mike. Sì, sì, sì, da uno spogliarello di Ada Wong allo spogliarello dei figaccioni di Magic Mike. Un film che intrinseco voleva da vedere da morire quando eravamo a Locarno, che era in anteprima internazionale, mica cotica. Invece gli ho detto, no dai, io sono stanco, e siamo andati a casa. E Magic Mike praticamente nasce da un'idea di Channing Tatum: fate un film su di me, questa era la sua idea. Tanto la gente, come per Resident Evil, va a vedere qualsiasi cosa, ci sono io, qualsiasi trama ci sia, quindi fate pure. Aveva contattato, oddio, chi aveva contattato? Un regista. Ah, ecco, aveva contattato, dove sta? Refn. Voleva assolutamente che lui lo dirigesse, perché aveva visto Bronson e gli ha detto, ma sei bravissimo, e la mia storia è tipo quella di Bronson. Non è assolutamente vero, però... Anche lui era uno spogliarellista, è sempre nudo. Non so, forse voleva solo andare a Cannes con lui e baciarlo. Credo che fosse quella l'idea. Però Refn ormai ha un progetto ogni giorno, quindi gli ha detto, no, guarda, non c'ho tempo. Allora... per caso Tatum era sul set di Knockout, il film, l'ultimo, penultimo film a questo punto, di Soderbergh, e gli ha detto, senti, che c'è voglia di farlo te? E lui ha detto, vabbè, famo. L'hanno prodotto insieme ed è venuto fuori sta roba. Appunto, molto simile, anche se romanzatissima, alla storia di Tatum, che a 19 anni era uno spogliarellista, poi è diventato modello, poi ha fatto Step Up 3D, no, Step Up l'1, mamma mia, è schifo. E allora la storia, diciamo che protagonista è sia lui che questo giovane, lo chiamano The Kid, e si chiama Adam, che è appunto un giovinastro, neanche 20 anni credo che abbia, che insomma una testa calda, non riesce a tenersi un lavoro, cerca di fare il carpentiere, ma il primo giorno già lo rubano, lo scoprono che ruba le Pepsi, mamma mia, che furto, se era in Italia rubava i foratini, altro che. E allora Tatum per caso lo vede una sera e gli dice: vieni con me, visto che sei un bel ragazzo, e facciamo pubblicità al mio locale. Poi sempre per caso quella sera si esibisce per la prima volta nel locale di Tatum. Che fa Tatum? Insieme a McConaughey e altri super figaccioni come, che so, Adam Rodriguez, che conoscete tutti per CSI Miami, ammazza di carriera, e Kevin Nash, che è bellissimo nel film, non si muove mai, guardatelo bene quando balla, tutti gli altri si muovono, lui è fermo, comunque era un ex wrestler. E poi insieme a Matt Bomer, che tutte le ragazze hanno il poster in camera perché è il protagonista di quella schifezza di White Collar. Vabbè, insieme a... E poi Joe Pantoliano, mi sembra. Che? Joe Pantoliano anche. E chi sarebbe? No, Joe Manganiello. Joe Manganiello, sì, Pantoliano, Manganiello. Pantoliano è orribile, nudo, per favore. Joe Manganiello, che abbiamo visto anche in... True Blood, sì, sì. Appunto, è un cast tutto di gente più tirata su dai... dalle serie TV, per esempio anche la Joanna, che è Olivia Munn, arriva da The Newsroom, la nuova serie TV gettonatissima in America. E vabbè, dove ero arrivato? Che mettono su sti spogliarelli, il giovane Adam incomincia a ingranare da prima, che è un po' rigido, si scioglie, gli piace questa professione, incomincia a guadagnare anche bene, finché insomma arrivano i problemi, perché lui appunto ha una testa calda, comincia a spacciare qualche, cos'era, eroina o cocaina, vabbè, insomma, comincia a spacciare e perde, durante una serata perde tutto il suo borsone pieno di roba, e i debitori arrivano lì per spaccargli il culo. Ah, vabbè, quindi siamo andati un po' oltre, ma vabbè, viene salvato da Tatum, che è appunto il Magic Mike del titolo, che aveva messo da parte un mucchio di soldi per smetterla con lo spogliarello e iniziare una sua attività di mobili fatti in casa, che erano veramente orribili, fatti con le bombole dell'ossigeno, ma chi li compra? Una schifezza terribile. Meno male che ha fatto l'attore, perché se era veramente quella la sua aspirazione, faceva la fame adesso. E boom, poi procede, no? Non vi dico altro perché è una trama avvincente. Niente, un film che è stato massacratissimo, soprattutto dai maschietti, perché guarda, questi si spogliano, come si permettono. In realtà, essere onesti, non si vede nulla, Si vede un pene pompato all'inizio. Sì. Finto. Fuori fuoco. Sì, fuori fuoco, ma boh, finto o no, vabbè, non è niente di che. Per il resto sono balli, vabbè, si vede un uomo nudo con le mutande. Anche al mare li vedete, però non fate tanto gli schizzinosi. Vabbè. E appunto, addirittura critiche a Soderbergh, che ha perso la testa, ha fatto un film di merda. Ma veramente, vabbè, Non tira fuori niente di estroso, non c'è nessuna inquadratura memorabile, non c'è niente di suo, però non è neanche un film orribile, non so, c'è questo pregiudizio, è il film di maschi nudi, boom, gettiamolo via. Comunque ha incassato parecchio, perché ovviamente le femminacce sono andate a vederlo. Mi sembra che sia un film, come si dice, insomma, rated R, comunque quello che ha incassato di più nella storia fino adesso, e sta guadagnando sempre di più. Comunque Rated R, poi non so, prima di tutto chi ci porterebbe i figli a un film del genere? E poi appunto non si vede nulla. Tu l'hai visto? Che ne dici? L'argomento del fatto che è un po' scabroso, la droga, l'ambiente non è esattamente educativo. Vabbè, ma quanti film non si beccano in rete? Sì, no, vabbè, sì, effettivamente forse il pene fuori fuoco ha condizionato tutto, dai. Vabbè. Tra l'altro dentro una pompetta che stava facendo in quel momento. Eh sì, se lo pompava perché non gli tirava. Sì, perché poi io all'inizio non ci avevo fatto caso, poi ho visto la faccia del protagonista e ho detto c'è qualcosa che non va. Poi ho notato l'orpello e vabbè. Ah, niente, alla fine sono d'accordo con te, insomma, tutta questa paura che ai maschietti cascasse il pisello se guardavano questo film, insomma, non mi è sembrato quello che dipingevano tutti, ovvero il classico filmetto per sciacquette. Mi dissocio dal termine sciacquette perché è offensivo per il genere femminile, però per la maggiore veniva definito così. E no, è una storiella abbastanza banalotta, la classica storiella dove il ragazzetto entra in un ambiente che all'inizio sembra tutto rose e fiori, tutto sbrilluccicante, gli mettono i soldi in mano e quindi si monta la testa, insomma, dalla povertà, come dici tu, dal rubare le Pepsi in un cantiere passa a spogliarsi e a guadagnare un botto di soldi, a cuccare come Inzaghi, insomma. Simone o Pippo? Ad averci i soldi di Inzaghi. No, Pippo, che Simone è un fallitaccio, dai. E niente, poi invece questo mondo non si rivela più sporco di quello che è, inizia a spacciare droga, insomma. Però alla fine il vero protagonista, come dice appunto il titolo, è Mike, che è un diverso, lui è un artista appunto che ricicla le lattine di Pepsi fregate dall'amico per farci tavolini e quindi lui ha un sogno, vede questo spogliarelli solo con un momento di passaggio e quindi insomma vuole affrancarsi da quell'ambiente in cui poi, vabbè, non spoileriamo nulla, però c'è un momento in cui capisce che con quell'ambiente non c'è niente a che fa e quindi diciamo che anche la figura di Giovanna, che poi è la sorella del protagonista, no. Giovanna è, no? Quella lesbo, insomma, la sua amica, vabbè, sì, insomma, la sorella quindi del ragazzotto di Pettifer, insomma, sì. E funge un po' da grillo parlante, sta lì a commentare e alla fine lo convince, insomma, a redimersi in un certo senso, a inseguire il suo sogno senza dover per forza condividere quel momento della sua vita con quest'ambiente con cui non ha nulla a cui spartire. Insomma, è una storia abbastanza banalotta che l'abbiamo vista in 10.000 altri film. È suggestiva forse l'ambientazione, perché insomma, come si dice anche sul forum di Games Village, suona sempre un po' strano che insomma non mi sembra né prostituzione né sfruttamento di che ignora i diritti umani spogliarsi, però insomma capisco quanto possa essere degradante. Si vede anche nel film lui, insomma, che deve condividere questi momenti con sti decelebrati che condividono mogli e altre robe. E niente, alla fine Soderbergh ogni volta dice che questo è il suo ultimo film perché non ha più nulla da condividere con il cinema, però puntualmente ci troviamo uno o addirittura due film di Soderbergh l'anno e insomma cominciasse a fare qualcosa di veramente suo, perché non lo so, a me fino a finestra sembra un autore abbastanza sopravvalutato, non so se condividete il mio pensiero, però fondamentalmente salta di pari in frasca, sembra quasi vorreste fare il Kubrick del nuovo millennio, però puntualmente non lascia mai il segno dove va a realizzare film, insomma. C'è qualche guizzo nella sua carriera, non so, il primo Sesso e Videotape, non mi ricordo manco il titolo bene com'era. Sesso, Bugie e Videotape. Sesso, Bugie e Videotape, esatto. C'è anche Non è male, comunque, il primo Oceans, filmetto di genere, heist movie. Sì, vabbè, non resiste all'insegna del passabile, però. Sì, sì, sì, insomma, come ho detto, non lascia mai il segno dove passa e dal punto di vista, ecco, forse sembra quasi un autore che è prigioniero della sua forma, perché dal punto di vista estetico è sempre molto, molto efficace, sempre magari ogni tanto cede un po' al virtuosismo fino a se stesso, però fondamentalmente i suoi film sono sempre belli da vedere, è il contenuto che spesso latita e quindi fa un po' film fiammifero, nel senso che non ti restano dentro dopo la visione, bruciano per il tempo che devono bruciare e poi via, te li dimentichi, insomma. A me sembra che tra i maggiori sia sottovalutato, nel senso, ha fatto comunque buona roba. La trilogia di Ocean va calando, però è comunque guardabile. Idem Erin Brockovich, a me piace parecchio. E invece tra i minori è sopravvalutato, se ne parla sempre troppo bene di Soderbergh, tra magari quelli, tra gli autori, tra i registi quelli meno conosciuti, perché quando ha fatto Che, insomma, lo consideravano un regista che si distaccava da quelli più commerciali. Non lo so, deve trovare la sua dimensione. Per ora sì, davvero, passa da un action come Knockout a, che ne so, Erin Brockovich, che non era molta trama e zero azione, a un film di rapine, a un film Contagion. Biografico. A Contagion. A Contagion, sì, che nessuno se ne è accorto. E a questo qui nuovo, che sembra quasi un progetto che ha fatto così, tanto perché c'aveva già lì il produttore, che era Tatum, e ha detto, vabbè, questo di sicuro tira. E, bah, non lo so, quando era giovane aveva quelle sue idee, tipo anche Bubble, bah, poi sì, gli hanno sventolato davanti i soldi e gli piace guadagnare. Infatti, quei due film su Guevara mi lasciavano spiazzato all'epoca. Sarà anche un altro di quei casi in cui gli hanno piazzato davanti il soggetto e ho detto ok, però sono ben fatti, li ho trovati ben costruiti, seri, ben girati, però sì, appunto, sono degli unicum in un periodo in cui fa cose completamente diverse, sembra che non abbia una direzione proprio. Diciamo che in un certo senso stupisce in negativo, non ti aspetti mai che realizzi quel progetto, invece all'improvviso vai a vedere che il regista c'è il nome di Soderbergh, così. Beh, ma ben vengano, fin come c'è, dico, è strano. Il problema è che poche volte riescono bene, magari. Sì, sì. Beh, non è che sia un capolavoro, mi erano piaciuti, sì. Però era, ecco, formalmente, come dicevi tu, un esempio di come sia competente a suo modo, però appunto, sembra che, sì, appunto, come Magic Mike, lo vuoi fare? Certo, dai qua. E comunque non ha chiuso, perché ha già pronto un nuovo progetto, The Bitter Pill, la pillola amara, che con Rooney Mara, Catherine Zeta-Jones, Jude Law, di nuovo Tatum, che... Diciamo che è dai tempi di Ocean's 13 che dice che è il suo ultimo film. Sì, come Berlusconi, no. E poi c'è già una scheda su IMDb di un Magic Mike 2, non so cosa ci sia altro da dire, ma è pronto un seguito, non con lui alla regia, ma, e neanche Tatum, credo, sarà inutile. Tra l'altro anche The Informant è suo. Sì. Pensato. E anche Traffic. Traffic, il remake di Solaris. Vabbè, quello dimentichiamolo. Gli altri invece... Intrigo a Berlino. Sì, ma... Poi lui è il regista amicone dei vari Pitt, Clooney, quindi sono tutti questa cricca. Non gli serve mai chiamare una star, c'era già lì. Ma vabbè, direi che possiamo passare al prossimo. Sì, però a proposito, visto che parlavi fuori onda di Side by Side, lì sembra una persona molto intelligente. Allora appare veramente pochissimo, Side by Side. E neanche lì lascia il segno, perché non mi ricordo la sua posizione quale fosse. Seduto, è quello che sembra Woody Harrelson. Genio. Vabbè, guardatevi Side by Side, non diciamo nient'altro. Vedi come te l'ha appoggiata. Grande film, se siete appassionati di cinema come lo siamo noi, ovvero malati veramente di cinema, andatevi a vedere Side by Side, perché è un grandissimo film, un grandissimo documentario. E vabbè, dai, allora passiamo finalmente al film per il quale ci siamo alzati stamattina con l'intenzione di realizzare questo nuovo episodio di Filmbusters. Stiamo parlando di Reality di Matteo Garrone. Intrinseco, che ha scritto la recensione, ce lo può introdurre. Ah sì? Sì. Dai. Va bene. Ci piace. Allora. Ma è stupendo. Sì. Beh, certo. sì, dunque, un momento che Dunque, un film che è stato premiato a Cannes quest'anno come il gran premio della giuria, quindi un altro esempio del cinema italiano premiato all'estero, al contrario di quello che dice Bellocchio e i politici italiani, non so dove vivono. È un film, come dice lo stesso titolo, che parla di questo fenomeno, ormai è arrivato un po' alla sua parabola discendente, invece ne escono di tutti e di più, di questi reality show. Però appunto, perché parlare oggi di reality a chi interessa? E lui lo fa in modo non particolarmente significativo, nel senso ne parla nel momento giusto, nel modo giusto, dal punto di vista giusto, e vediamo qual è questo punto di vista. Comunque la storia è quella di questo Luciano Ciotola, un personaggio a nome bellissimo, che fa il pescivendolo in un quartiere di Napoli, che mi sono informato, non so qual è, un bellissimo quartiere, al di là dell'orrore edilizio. E quindi insomma fa questo lavoro molto, che lo mette a contatto con la gente, insomma, per lui è quasi perfetto, perché è un caciarone, un simpaticone, e chi ha visto il pescivendolo nel mercato di città sa cosa vuol dire, insomma, il contatto, l'urlo, la simpatia, attirare il cliente, insomma, è un casinaro che si guadagna la simpatia dei compaesani, insomma. E nel frattempo, per arrotondare lo stipendio di un pescivendolo, che chiaramente non è particolarmente alto, si insomma arrangia un po' con la moglie per mettere insieme una truffa che non è ben chiaro in cosa consiste. Comunque una truffa ai danni del datore di lavoro, insomma, della moglie. Rimette in commercio dei prodotti probabilmente restituiti come difettosi, insomma, non è ben chiaro. Tutto va bene, insomma, fa la sua vita, fa le sue feste, va ai matrimoni come la prima scena, insomma, matrimoni molto frequenti e molto affollati al sud, e fa i suoi numeri, è un po' il personaggio, quello che i parenti spingono ad esibirsi, a fare il suo numero, perché è simpatico, perché deve essere simpatico per forza, anche quando non ne ha voglia, quando non è il caso. E in una di queste situazioni viene contattato dalla moglie per telefono e dice, insomma, vieni al supermercato, c'è un provino del Grande Fratello, un'occasione per far vedere al mondo quanto è simpatico questo Luciano. E lui, poco speranzoso, ci va, ci prova, addirittura arriva tardi, riesce a ottenere comunque l'occasione, si fa in modo un po' svogliato questo provino grazie a questo Enzo, che è un concorrente del Grande Fratello, che ha guadagnato la celebrità, insomma, anche se non ha vinto, forse ha vinto, non è chiaro. E insomma, lo fa e lo lascia da parte, insomma, come un modo per accontentare i capricci dei parenti che lo infastidivano un po'. Però, fatto questo, lo contattano, dicono vieni a Roma, c'è un ulteriore provino. E dopo questo provino, che dura tantissimo, in cui lui si apre per la prima volta, racconta se stesso, comincia a credere profondamente in questa cosa. Dice, cos'altro mi può capitare nella vita? Se faccio questo, anche se non vinco, mi chiamano a fare le serate, come succede in Italia. E qui sta il punto di vista italiano, succede anche all'estero questo, però in Italia in particolare questi VIP dell'ultimo minuto si arricchiscono così, fanno 2-3 puntate di un reality, ne escono e si mantengono con le serate in discoteca, è una pratica particolarmente nota in Italia. E lui insomma punta tutto su questo, tant'è che comincia a compromettersi, pensa di vendere la sua attività, pensa di fare tutto il possibile per assecondare la decisione dei giudici, e comincia a vivere in modo ossessivo la cosa, addirittura anche sempre spinto dai parenti o dagli amici, comincia a sospettare che lo spino, che ogni cosa che gli succede nella giornata sia una prova di questi giudici che vogliono verificare se davvero è interessante, buono e onesto come può sembrare. E niente, senza andare oltre, insomma, lui precipita un po' in questa spirale di paranoia. E tant'è che appunto viene un po' il dubbio sulle intenzioni di Garrone di fare una commedia, tutta una commedia all'italiana. Sì, l'elemento amaro della commedia c'è, però è davvero una cosa che scivola in secondo piano, è, almeno per quanto mi riguarda, quello che si vede per primo, quello che colpisce di prima è la malinconia, l'ansia, il grigiore, la paura, anche perché questo personaggio un po' perde un po' il controllo, anche la moglie stessa dice, insomma, non mi sento serena. È davvero tetro come film, nonostante tutto. Non è, come stanno dicendo in alcune recensioni italiane, una specie di mix tra la commedia e L'inquilino nel terzo piano, però non ci va lontano, è qualcosa di inquietante. lui voleva fare la commedia, l'ha detto subito dopo Gomorra, e l'ha fatta a suo modo, ma è davvero poco da ridere, è drammatico al punto giusto, no, è un film quasi neorealista perché è girato con uno stile molto freddo, asciutto, è davvero un pedinamento da vattiniano, insomma, uno spiare questa vita, questi personaggi, queste maschere napoletane, queste macchiette che fanno la loro vita, che fanno le loro scelte, eppure subentra il macabro, l'orrido, è particolare come film, perché appunto deve mantenere una sua impronta realista, e lo fa, senza discostarsene troppo, però deve anche drammatizzare, rendere l'idea di questa situazione quasi al limite dell'assurdo, anche se in realtà poi, da quel che ho capito, si ispira a dei fatti realmente esistiti, accaduti. Un uomo a quanto pare ha davvero vissuto un'esperienza simile, e non sarà stato l'unico sicuramente, e quello che colpisce è proprio questo stile, che è efficacissimo, una macchina da presa che spia, sta lontana, quando deve stare lontana si avvicina, si sbatte sui volti, appunto delle maschere, questi volti grezzi, teatrali quasi, questi volti neorealisti, ciccioni. Ciccioni anche, sì, ma anche appunto Aniello Arena, che è terrificante come presenza, è anche è una maschera, questo mento, questo naso, questa fronte, è un bambino quasi, no? Però poi dici, cazzo, questo è un ergastolano, non è straniante, è un po' come Cesare deve morire, vedi questi uomini, che poi lì fanno una cosa diversa, più dura, però quest'uomo che ha fatto queste cose ti coinvolge in questo modo, sembra quasi un film di Pasolini che mette in bocca la poesia al popolazzo, ti dà un effetto davvero strano, e poi è bravissimo, è coinvolgente, ti tira giù, questo sguardo alienato in cui spia, soprattutto nel finale, questa scena straniante che qualcuno ha trovato addirittura un po' ermetica, però è bellissimo, è questo inizio, forse la scena più bella, ne ho parlato anche nella recensione, che riassume un po' l'estetica di questo reality, un matrimonio come può essere un matrimonio napoletano, e senza essere razzisti, io sono per metà pugliese e ho visto comunque conosco la cultura mediterranea di quelle zone, quindi non è che ne parlo per partito preso, è così, è un modo di vivere abbastanza colorito, il casino, la caciara, il kitsch. Allora, anche io che abito qua in montagna, è costume italiano, certo. dal poi in giù immagino che sia Anche qui c'è un anche di colore, nel senso lì lo esprimono in un modo e qui in un altro. Certo. Più vai giù più c'è colore, anche ancora più a sud c'è questa idea del vestito colorato, dell'apparire in questo modo particolarmente vistoso. Insomma, questo matrimonio in un hotel probabilmente di lusso, con questa celebrità Enzo, che non è nessuno, è un deficiente, arriva, fa la sua apparizione adorata dalla folla, fa il bagno proprio nella folla, è terrificante, insomma, è una cosa che colpisce, la carrozza stile ottocentesco, i vestiti, la musica di cattivissimo gusto, che però piace e va bene così. E poi lo svestimento, questa cosa che colpisce molto, visto che ha colpito anche te, da quello che hai scritto su Facebook, cioè questi costumi sfarzosi, queste cose colorate, strane, vistose, anche brutte in un certo senso, che vengono tolte da queste donne corpacciute, che mostrano un po' la loro flaccidità, insomma, il corpo di una donna anziana, insomma, e Garrone che le spia con questa panoramica, bellissimo, no? un corridoio di una casa popolare, e lui che ruota, fa questa panoramica sulle stanze, mostrandoci tutti i partecipanti alla festa che si svestono stanchi. Sì, ma anche lo squallore dell'appartamento. Sì, esatto, ci stavo arrivando, sì, si vede spesso in questo film, anche in Gomorra, la Napoli di che ricorda quella di Le mani sulla città, no? L'abusivismo, pure le case antiche abbandonate, queste scale a chiocciola bellissime, i portici, però il muro con l'intonaco che cade, la decadenza, è tutto squalido l'interno, vedi, c'è proprio questo contrasto, l'esterno, cioè l'inizio, la festa, il momento di goliardia, e poi l'interno che è tutto brutto, tutto squallido, le donne sdentate, le truffe, i volti brutti, l'ipocrisia, è un film duro, ecco, che racconta l'Italia e soprattutto la Campania in un modo molto crudo, in modo che una persona che le conosce, ecco, non è un piemontese o un milanese che racconta Napoli, è Garrone che dice, ecco, siamo così. E il bello è questo, parla dei reality show, ma non è il reality show a Milano o il reality show in Austria, è un reality show vissuto da gente che lo vive in modo insano, ecco, addirittura un deficiente che ha solo partecipato diventa un VIP, e per loro quello è la massima aspirazione, e lui te ne dà perfettamente l'idea. Questa predica in chiesa, l'apparire, non è l'apparire del fenomeno in sé, ma della necessità che hanno queste persone di apparire in un certo modo, di uscire dalla loro condizione solo attraverso queste apparenze. Anche questo finale poi lo richiama l'idea. E, un bellissimo film, ribadiamo, i film italiani, uno vede i film di Bellocchio e dice ah, che orrore, invece no, per fortuna c'è gente come Garrone che ci ricorda che c'è un buon cinema in Italia, un bellissimo cinema, che viene premiato all'estero, apprezzato, anche se magari in Italia poi non ha la giusta visibilità, che poi è tutta da vedere, insomma è uscito così con la solita distribuzione, però cinema che piace a tutti, o quasi, senza essere provinciale, perché come dicevo sempre nella recensione non racconta la provincia, anche se non è proprio provincia, però diciamo la periferia, ecco, ma non è provinciale, è un film neorealista a suo modo, è realistico, racconta qualcosa senza filtri, non c'è un input del regista, ecco qui urlate, addirittura mi veniva in mente recensendolo e guardandolo, c'è il cliché, la sceneggiata napoletana, no? La recitazione sguaiata, urlata, qui c'è l'urlo perché lo richiede il ruolo, ma è davvero composta come interpretazione, per questo poi sono tutti bravissimi oltre a Arena. Certo. E invece poi vedi Bellocchio cosa ti fa, parla di eutanasia, tema molto più spinoso, lo fa con una goffaggine che davvero dovrebbe riscuotere solo imbarazzo soprattutto da parte sua, e invece no, Garrone fa una cosa così rischiosa, parla di una cosa così particolare, boom, elegantissimo, film fatto e finito, perfetto, premiato, riconosciuto, candidato agli Oscar, poi non, cioè, tra i candidati agli Oscar sarebbe potuto andarci benissimo. È bellissimo anche Cesare deve morire, l'ho visto oggi e insomma non saprei fare una selezione, sono molto diversi, forse è più interessante Cesare deve morire, però in reality non avrebbe stonato, soprattutto dopo gli ultimi anni, i candidati che ricordiamo non erano proprio entusiasmanti, e sarebbe stato bello, ecco, è bello anche così, però ci sarebbe stato bene reality, proprio italianissimo. Ecco, secondo me la vera forza di reality è che è una storia di più ampio respiro di quanto possa sembrare, perché fondamentalmente la storia, sì, il soggetto è piuttosto, come si dice, terra-terra, nel senso che comunque fa riferimento a una situazione ben definita e che forse tutti non possono capire, anche all'interno del film ci sono questi personaggi, ad esempio quando arriva la signora da Roma che ha il marito in quel quartiere, sembra quasi un alieno. Sì. Però fondamentalmente alla fine quello che si percepisce è la distanza che passa tra quel modello lì e il modello che viene esaltato da programmi quali Il Grande Fratello, perché tutto sommato la situazione quella della napoletana la vivono giustamente solo i napoletani, magari anche per me comunque nella mia città vive una situazione completamente diversa, non c'è niente a che fare con quello che vediamo nel film, in ogni caso però percepisci l'universalità di questa distanza tra un modello che viene esaltato dalla televisione e invece il modello che è più terra-terra, che è quello della realtà nostra di tutti i giorni, di un'Italia in crisi, in un crisi evidentemente non solo dal punto di vista economico, anche dal punto di vista dei valori che vengono appunto esaltati da questi modelli falsi, insomma, da questi Enzo che vanno in giro per le discoteche a farsi fotografare con i ragazzini, da questi modelli del Grande Fratello, anche perché a un certo punto nel film, che forse arrivi anche a pensare tu che evidentemente abbiano rubato elementi della vita di Luciano, del protagonista, per costruire dei personaggi all'interno della casa del Grande Fratello, quindi capisce che è tutto costruito e niente, insomma, io alla fine condivido tutto quello che hai detto tu, è un film veramente bellissimo, anche questa telecamera che man mano che si va avanti con l'ossessione del protagonista si fa più claustrofobica, più vicina con lo sfondo che finisce per diventare sfocato, insomma alla fine sembra quasi vedere solo le facce dei protagonisti perché il mondo esterno è totalmente sfocato. È bello anche quello che sì, mi hai ricordato, c'è un'analogia, insomma la prima scena aerea, questa veduta aerea con l'elicottero, e nel finale viene richiamata, però è appunto un significato non antitetico, perché no, c'è di nuovo un'idea dell'apparire, però è bello come si chiude il cerchio, no? Il giorno la carrozza, di notte la casa, c'è cioè un chiudere il cerchio, insomma. Ecco, ad esempio sulla questione dell'apparire trovo che abbia detto cose più interessanti e l'abbia detto con più in classe questo reality di Garrone, piuttosto che ad esempio un documentario come Videocracy di Gandini, che ovviamente per la sua natura è didascalico, forse è anche più didascalico del solito, mentre invece reality di Garrone è sottile e parla per emozioni comunque. Niente, il film è veramente bello, bello, bello, grandi interpretazioni, come dici tu, stridono comunque le performance con la realtà poi di tutti i giorni di questi attori qui, come ad esempio il protagonista Aniello, che è un ergastolano, mentre invece nel film sembra un innocente, un bonaccione, un bonaccione, sì, un povero ingenuo che è vittima del sistema. Niente, poi vabbè, non so se vogliamo parlare un po' del finale, immagino che non credo che si possa parlare di spoiler in questo caso, perché però vabbè, insomma, se non l'avete visto magari saltate un paio di minuti, insomma, però alla fine arrivi a questo finale in cui lui, come dicevi tu, abbraccia la follia, la sua follia, e fondamentalmente il film alla fine è una grande favola nera, una black comedy, come dici tu, quindi ti affezioni talmente tanto al protagonista che alla fine glielo vuoi pure concedere quel sorriso là. Non è la presa di coscienza della follia, non è triste, non è cupa, alla fine dice vabbè, ne ha passate talmente tante che sì, dai, concediamo anche questo sorriso. Alla fine ha raggiunto il suo sogno, per quanto possa essere distorto il suo sogno, insomma. Però non ce l'ha fatta. Never give up, non ha mollato lui, insomma. No, ormai poi non gli conveniva più, visto che quello che ha fatto sì. Si è bevuto tutto. Appunto. E Monco, ci sei? No. Dici? No, su Arena mi piace che lui è un uomo che vorrebbe uscire, mentre nel film è un personaggio che vuole entrare. Bello anche questo. E lui vuole rinchiudersi in un posto, invece che appunto il contrario della sua vita. E niente, sulla trama avete detto tutto voi, sul film in sé, bellissimo. Sia dalla prima inquadratura aerea, questo lungo piano sequenza, che a quanto pare è ispirato a Up, così ha detto Garrone in un'intervista su Sky Cinema, mi sembrava che fosse accondiscendente con l'intervistatore. Sì, sì, bravo, hai ragione, perché lui glielo faceva notare. E niente, mi ha sorpreso, ma neanche più di tanto, nel senso, Garrone si conferma azzardo il miglior regista italiano al momento. Vabbè, sono gli italiani, però gli italiani sono a fine carriera, Garrone è nel centro e mi sembra attualmente il migliore. E Moretti? Moretti non ha la cifra stilistica di Garrone. Ha delle belle storie. Diciamo che tra gli emergenti è senza dubbio il migliore. Vabbè emergenti, emergenti. I post-emergenti, dai. E quelli. E tra i giovani. Vabbè, Moretti non è. Under 50, quanti anni avrà Garrone? Dai, under insomma, 50. Appunto. Vabbè, diciamo, ma Moretti. Under 50. Moretti, diciamo che. Vabbè, è secondo Moretti, dai, lasciami questo. Anche quando lo amo, ma dopo. E, cioè, sia da quell'inquadratura iniziale, che appunto si ricollega con l'ultima, sia quelle panoramiche a 360 gradi, vabbè, vedete tutto voi, bastardi, mentre si spogliano tutti nell'appartamento, ma anche quando c'è la telefonata burla, anche lì c'è una bella panoramica. Magari non le noti, però fa sempre questi movimenti bellissimi, abbraccia tutta la scena, come regia è veramente bellissima. E poi anche questa cosa che si avvicina sempre di più ai volti man mano che la sua follia aumenta, e tutte queste spie del Grande Fratello che non sono vere, ma appunto sono sempre sfocate. Bravissimo, è un film meraviglioso, al di là della storia, che magari qualcuno dirà ma i reality sono cosa vecchia, è vero Sergio Leonard, ma che cazzo hai capito? Però è bellissimo, è girato in una maniera, wow, e sì, io ho visto tempo fa quello dei Taviani, bello, però io avrei mandato questo. Anche come fotografia, è bellissima. La scena iniziale del matrimonio è così accesa, tutti i colori vengono sparati fuori. Sembra quasi un film di Cipriano Maresco. E continua per tutto il film con questi colori accesissimi. Le pareti dei quartieri lì sono sempre di un giallo acceso. Bello, bello, bello. Sorpreso, ma neanche tanto poi. Bravo Garrone. Sì, ma poi non capisco sta cosa del reality, roba passata. Cioè, alla fine la cultura dell'apparire è attualissima in Italia. Poi, al di là del titolo, che uno un po' più ingenuo può fare il collegamento subito su quello, ma il reality è il mezzo per parlare di qualcos'altro, non è il film sul fenomeno reality. Cosa c'è da dire oggi sul reality? Figurati se uno si mette a fare un film del genere, poi lo vedi e ti rendi conto, cioè è automatico, non credo rimangano dubbi, non so come possano rimanere dubbi. Sì, parla di quello perché è il mezzo per parlare di qualcos'altro. Ha scelto quello, ma poteva usarne benissimo altri. Cioè, come Gomorra, è un film su Napoli. Usa il reality come la camorra per parlare della cultura che conosce. Sembra elementare, sì, non capisco come si possa ragionare in questi termini. Comunque, che altro aggiungere? Non lo so... Un confronto con Sorrentino, visto che comunque sono i due registi che... È un venduto Sorrentino. No, però... facciamo il paragone con This Must Be the Place. Anche quello bellissimo come regia, come fotografia, come tutto. Però questo ha una storia buona. Quello... Anche lì era una commedia tragicomica. Però questo è molto meglio. Approfondimento dei personaggi, le facce che usa lì, Sorrentino usa solo la maschera di Sean Penn e a Cat Hill, tieniti questo e fatela bastare. Ma anche per regia mi sembra molto meglio questo, cioè Sorrentino fa il servizietto, fa il lavoretto, ti mette in asse l'inquadratura, dice ok, qui ci metto l'indiano, qui la frontiera, cioè tutto costruito a tavolino. A me per questo non è piaciuto, è un film finto, bello da vedere, ma è come un quadro copiato su un classico, cioè lo sai fare, bravo, però non è sentito. Qui invece la regia è al servizio di una narrazione, cioè un'inquadratura ha un perché, una zoomata, una panoramica, qui hanno... E basta! Ma cosa? Stai soffiando! Non sono neanche vicino! Non so che cacchio è! È una burrasca! Mi sembra comunque una cosa più raffinata questa. Cioè Sorrentino, per carità, senza metterlo in disparte, perché comunque This Must Be the Place è la cosa meno interessante che ha fatto per quanto mi riguarda, ma... Cioè, la competenza ce l'avrà anche, ma la competenza... tecnica ce l'ha quasi chiunque. Qui la differenza la fa la regia vera e propria, e mi sembra che Garrone abbia dimostrato che insomma di saperlo usare la regia, non è semplicemente un vezzo stilistico. Tra l'altro quella di This Must Be the Place mi sembra anche più sobria e di una nota più bassa rispetto a quella del Divo. Sì. Invece c'è Sorrentino in tutto e per tutto, anche con i suoi virtuosismi che non a tutti possono piacere, però fondamentalmente è quello Sorrentino. This Must Be the Place mi sembra piuttosto che il produttore abbia tirato la cinghia in qualche occasione, ma soprattutto non capisco perché si è affrancato dalla realtà italiana. È dovuto andare. Ha fatto un po' il percorso di Muccino, insomma. Basta che poi Sean Penn gliel'ha chiesto. L'ha conosciuto a Cannes, gli ha detto facciamo qualcosa assieme. Ha tirato fuori lui. Dovevi venire in Italia. Ma lui aveva detto: guarda, c'ho già i miei produttori, vieni qua. Ma penso comunque che si sia fatto ingolosire dal paesaggio, Sorrentino. Quando hai, quelle strade lunghissime, quei canyon americani, piazzi lì la telecamera e lasci andare. Sì, però come dice Intrinseco è meno sentito, nel senso che comunque si vede che sta parlando di qualcosa che fondamentalmente con lui non ci azzecca niente. Sì, ma io il paragone lo facevo così, perché era l'ultimo. Se facciamo invece il paragone con... No, ma io quando ho fatto la domanda era proprio a questo volevo arrivare, quindi... Perfetto. E niente, quindi, che dobbiamo dire? Agli Oscar invece ci andrà quello degli italiani. Sì. Cioè, se ancora non sono riuscito a vederlo, insomma, però... Facciamo una lista di quelli che erano candidati, magari qualcuno lo vuole sapere. C'era l'orribile, Bella Addormentata di Marco Bellocchio. Diaz di Daniele Vicari, Reality, poi che c'era quello di Avati, che era il cuore grande delle ragazze, è stato il figlio di Cipri, gli equilibristi di Ivano De Matteo, Ivano De Matteo, si rispondono alle mail, La Ba, che è Educazione Criminale di Guido Lombardi, forse il meno conosciuto di questi, che però si trova, si trova, tra virgolette, cioè, avete capito, amica, amica. Magnifica presenza di ospite, che vabbè, e Posti in piedi in paradiso di Carlo Verdone, che credo che sia distribuito da Medusa, quindi per contratto ci va nella lista, tanto poi lo scartano. Non c'era Acab? No. Meno male. Ma non è troppo vecchio per un pelo Acab? Un attimo che vado ad aprire la porta. No, mi sembra che comunque Reality, essendo addirittura di Cannes, sia ancora molto più vecchio. No, come? Acab è abbastanza più vecchio. Reality appunto è uscito più o meno quando è uscito Diaz, che è uscito un po' di mesi dopo Acab. Ma Acab che era forse inizio gennaio. 2012, ma io boh, si può essere anche prima, comunque sì, mi sembra fosse già 2012. Vabbè, però comunque è 2012, quindi sì, cioè, sì, no, è vero, l'anno c'è, sì. Ecco, vabbè, comunque era così provinciale. Ecco, a proposito di provincia, anche Diaz me ne ero dimenticato nei mesi, però si parlava di provinciali, cioè di film italiano per bell'occhio. Anche più italiano di Diaz, cosa c'è? Eppure è portentosa. Ecco, anche quella gli Oscar non mi sarebbe dispiaciuto, però è difficile. È una cosa così brutta da vedere e così italiana che era meno facile da vendere degli altri due. Sì, ecco, a proposito di questo, ritornando sul discorso del giurato al Festival di Venezia, i film italiani li capite solo voi. Non è proprio una critica, è ovvio che un Bella Addormentata e un Diaz lo capiamo di più noi, però non era proprio un giudizio negativo, è semplicemente che sono film che noi capiamo, perché insomma la vicenda di Eluana Englaro e il G8 di Genova è ovvio che noi li conosciamo meglio di un americano, però non vuol dire che sia una critica. Ci sono molti film americani che dovresti conoscere la vicenda di cui parlano, però si riesce ad apprezzare lo stesso. Certo, non li capisci a fondo come gli altri, ma si godono lo stesso. Non capisco dove Bellocchio ha visto l'intento del giurato di imporre la sua volontà, nel senso di suggerire quello di cui noi italiani dobbiamo parlare, perché poi il discorso verteva su questo. Cioè, non venite voi dall'estero a insegnarci quello di cui dobbiamo parlare noi. Semplicemente ti ha detto che il tuo film fa cagare. Sì, non sapeva come rispondere, insomma. È stata una versione diplomatica, insomma. Se l'ha rigirata anche lui, perché dopo è stato lui a dire sono film italiani, loro non li possono capire, non devono mettere bocca. Quindi poi lui si è anche appoggiato al concetto, capendolo male, tra l'altro, perché a Cannes, quindi, una giuria di tutti italiani c'era. Sì. Moretti ha dettato legge anche a Berlino, dove non c'era. Gli italiani hanno vinto perché, ragazzi, in un anno ha due smentite: Reality e Cesare deve morire. Per non parlare del resto, sì, però io Bellocchio alla fine lo capisco anche perché, vabbè, io alla fine faccio sempre la voce fuori dal coro perché effettivamente non ho visto il film e quindi magari non ho voce in capitolo. Però fondamentalmente, da quello che avete detto voi, ma da quello che hanno detto anche gli spettatori, è una visione negativa del film che stride con quella dei critici. Quindi, praticamente la totalità dei critici ha lodato Bella Addormentata. E quindi io casomai lo capisco pure lui, perché dopo 15 minuti di applausi ti arriva una mazzata tra capo e collo così, effettivamente non sai manco che rispondere alle accuse di italianità, di provincialismo. Sì, vabbè, quindi magari non capisco la critica, vabbè, siccome è Bellocchio va promosso a prescindere. E poi gli stessi critici, ho visto ad esempio qualche giorno fa su una pagina di una nota nuova rivista italiana, gli stessi critici... Hai preso alla fine. Total Film, no, ho visto sulla pagina di Facebook. Ah. Dove praticamente uno diceva, dopo averlo lodato a destra e a sinistra, vabbè, però Bellocchio non deve lamentarsi del fatto che non lo premiano a prescindere. Ma cazzo, allora anche voi che lo lodate a prescindere, cioè... Vabbè, ma scusa, anch'io posso lodare quanto vuoi, che so, una squadra di calcio, ma se non vince, non vince e non deve lamentarsi. Non è che, ma tutti hanno parlato bene di me, e chi se ne frega, vai là e fai un qualcosa di buono. i gol sono quelli. Appunto, non è che è una vittoria morale, vabbè, però devi vincere. Non è che tutti ne parlano bene, allora è sistematico che tu vinca. No, ci sono i giurati e ci sono i critici, non decidono i critici. E quindi viva reality e abbasso bella addormentata. Hai voglia. Vabbè, visto che siamo già in ambito del cinema italiano, visto che questi sono i 10 film candidati, qual è il giudizio del cinema italiano? Ma anche solo di quest'anno. Qual quest'anno è? Ottimo. Cioè, ottimo. Comunque sono stati ottimi film. Dicevamo Diaz, Acab a suo modo, che come opera di fiction, che come tale io la giudico, non era neanche male. Questo, reality, i film dei Taviani, non sono tantissimi, però per l'Italia una buona media come qualità. Diciamo che guardando solo quest'anno, rispetto ai precedenti, magari c'è da ben sperare. No? Io sarò di parte, ma anche quello di Avati non è male. Ma l'ultimo, quello il Corriere su Sky adesso, è già arrivato. Quindi proprio l'ultimo, sì. No, devo ancora vederlo. Forse la situazione è molto meno tragica di quanto molti la dipingano. Però voi che rapporto avete con l'affermazione di Cahiers du Cinéma, di un redattore di Cahiers du Cinéma che ha detto che non esiste una scena italiana ma che tutti i film vanno valutati singolarmente? Vabbè, è un discorso che si può fare anche per la Francia. Dici? Perché no? No, io dico... dite, vai avanti. Io no, sono d'accordo. Sono questi esempi che sono più o meno frequenti. Poi c'è sempre una cosa strana, noi siamo ancora legati al cinema di papà, insomma. Non abbiamo avuto fasi di transizione. Quelli di rottura sono stati Bellocchio, per esempio, Pupi Avati e Moretti, che però sono diventati vecchi e sono ancora loro a fare i film. Invece in Francia, a parte che comunque i giovani ci sono e fanno un sacco di roba interessante, comunque c'è, se parlo penso alla Spagna o alla Francia, penso, ecco, c'è un cinema francese, un cinema spagnolo. In Italia penso ci sono degli autori interessanti. Avevo capita in un altro modo, sì, vero. Io immagino che per scena si intenda proprio questo, il fatto che in Italia ci sono alcuni autori che a volte, spesso e volentieri fanno ottimi film, mentre invece in Francia spesso e volentieri anche l'interesse suscitato che suscita un film così a prescindere solo per la sua appartenenza territoriale, diciamo che sottolinea il fatto che esista una scena, nel senso che comunque lo dicevamo anche in varie recensioni, ad esempio anche in quella di Eva, cioè esiste una scena spagnola, altrimenti tu non ti saresti mai interessato a un film come Eva, magari. Sì, sì. Mentre invece proprio il fatto che sia un film di fantascienza proveniente dalla Spagna e che sai che la Spagna comunque da anni tira fuori i prodotti di qualità, forse è questo che rende l'idea di una scena proveniente da una cinematografia, mentre invece in Italia non c'è. Anzi, forse a volte il senso d'appartenenza al cinema italiano odierno è un deterrente a guardare più che... A volte ritornano. Insomma. A sentire i produttori dicono che la colpa è proprio degli artisti, dei registi, degli sceneggiatori che non hanno coraggio, mentre loro gli danno fiducia. A sentire gli sceneggiatori è tutto il contrario, sono i produttori che non danno fiducia. Quindi è uno scaricabarile continuo. Tipicamente italiano. Sì, e poi la colpa principale comunque è del pubblico, se non andate a vederli. Cioè, Reality è un bellissimo film, eravamo in sala in 12, 15 sì. Magari. Noi eravamo in 3. Ecco, vedi? Cioè, poi mi piace la frase di solito, cioè un dialogo di solito è questo. Sono andato a vedere un bel film al cinema. È italiano, allora no, è come, cioè, insomma, aspetta, vai a vederlo, cioè, Reality mi sembra un bellissimo film, però, no, è italiano, non so, purtroppo abbiamo questa mentalità noi italiani, i francesi non ce l'hanno, perché, vabbè, sono abituati bene, bisognerebbe comunque dare fiducia, e poi se fanno schifo, fanno schifo. Ma non sono affatto abituati bene, anche il fatto che c'è il brutto vizio di parlare per sentito dire, perché quando parli di cinema italiano la mente dell'uomo medio di turno va direttamente ai cinepanettoni, che poi è un paradosso perché i primi a guardare i cinepanettoni è l'uomo medio. Esatto, sì. Quindi è tutto paradossale qui. effettivamente Reality ha fatto flop abbastanza consistente, mi sembra di aver letto. Mi sembra che non abbia raggiunto nemmeno il milione di euro nel primo weekend, quando solitamente, insomma, un film italiano di richiamo ci arriva a quella cifra lì. Ringraziamo Resident Evil un'altra volta. Però è anche un circolo vizioso, perché se i film non escono quasi mai, tipo, ecco, Diaz, che è solamente uscito, ma non con una buona distribuzione, cioè, poi uno dice, non posso andare a vedere, smetto di informarmi. Cioè, io magari non lo faccio perché sono appassionato, ma uno spettatore meno addentro a queste cose dice, boh, non riesco a vederli questi film, smetto di interessarmene. Poi, quando poi ci sono al cinema, c'è proprio una sfiducia a monte. Una volta che trovi il film italiano in sala è un miracolo, dice, sarà la solita porcheria, e non c'è proprio un meccanismo che si mangia la coda, credo. Mi ha sorpreso vedere Reality, ma anche Bella Addormentata, che cavalcando il festival, ok, ma questo, cioè, pensavo di non trovarlo qui, invece no. Beh, ad esempio, anche la scelta distributiva di non rilasciarlo nelle sale in prossimità di Cannes è stato, sì, penso, un suicidio. Poi qui, perché con Resident Evil va bene. Non so se senza sarebbe andato meglio, non più di tanto magari. Anche perché comunque la distribuzione sembra abbastanza capillare, 345 sale, sì, è una bella cifra. E qui nei multisala c'era, ha detto, mi ha sorpreso. Di solito noi questi film da festival li andiamo a vedere nei cinemini a 40 km da qui, invece no, stranamente. Boh. No, per non fortuna poi che c'è... No. Vai, di lì. Cioè, non me la sento neanche di accusare i multisala. È inutile comprare un film che è comunque una spesa, non è che costano di meno perché li vede meno gente, per poi vedersi in sala e quindi accendere il proiettore, le luci, il riscaldamento, sono costi per un film che vanno a vedere in quattro o a volte magari anche solo due persone, quindi paghi una sala per due persone, quindi quanto, 15 euro un biglietto. Non li compri, quindi non hanno distribuzione, sì, appunto, è un circolo vizioso, bisogna andare a vederli, punto. Volete un cinema buono? Andateli a vedere. Perché negli anni 60 e 70 il cinema era buono? Vabbè, avevamo gli autori, vabbè, sì, però le sale, guardate a ogni fine anno la classifica di incassi, e i film italiani occupano 8 posizioni su 10 della top 10. È sempre stato in calo questo, però se non andate a vederli non ci sono soldi per fare film belli e non c'è distribuzione, parte tutto da voi, non lamentatevi. E vabbè, e non so se hai intrinseco, volevo aggiungere... No, niente. Cosuccia? No. Quindi possiamo concludere qui? Ma sì, dai. Diamo un'occhiata ai film in uscita. Anzi, su, una cosa la voglio dire, facciamo lavorare più Ergastolani. Possiamo recitare più Ergastolani, se questi sono i risultati. Sì, Cesare deve morire era un po' straniante come cosa, anche se qualche attore buono in mezzo c'era, ma qui, oh, se sono tutti come Aniela Arena, bam, facciamoli lavorare, no? Si lamenta delle carceri affollate, facciamoli fare gli attori, ora che roba. Ma Bellocchio ha fatto un film sui carcerati, quello del PDL lì, non erano tutti reo con... no, magari carcerati. Bisognerebbe fare il contrario, mandare in galera i registi, magari imparano gli attori. E gli attori. Sì, gli attori dei film come Bella Addormentata, così si indeboliscono un po', perdono energia e non urlano più. Sì, anche la Per, dai, così. Voglio un bel film di galera con la Per. Comunque, allora, settimana prossima esce... tra l'altro settimana prossima, domani, visto che comunque ormai, come diceva anche il Monco, hanno spostato il giorno ufficiale di distribuzione dal venerdì al giovedì, e quindi giovedì 4 ottobre, quando ormai ascolterete quindi questo podcast, questi film ci saranno già nelle sale, ci riferiamo allora all'Ultima spiaggia di Gianluca Anzanelli. Ma italiano, che schifo. Un giorno speciale della Comencini, quello sì. The Apparition, che è una ghost story di Todd Lincoln, che vabbè, c'è Tom Felton che interpretava Draco Malfoy nella saga di Harry Potter, vabbè. Poi I padroni di casa di Edoardo Gabrillini, anche questo con Valerio Mastandrea, anche questo era Locarno, Gianni Morandi ed Elio Germano. Poi Step Up 4 e ho poi parlato di Channing Tatum e appunto vedi tutto si collega, e poi c'è Ted di Seth MacFarlane, che so che voi due odiate, sì, peggio dell'Anticristo. Noi lo odiamo, vero? Sì. Ma perché questo odio per Seth MacFarlane? Perché ha smesso di far ridere, molto presto. Eh? MacFarlane? Perché MacFarlane è francese? MacFarlane è francesissimo. Sì? No, perché ci ha dato i Griffin e li ha uccisi dopo pochissimo. Pochissimo che intendi? Quante stagioni? Due. Credo due, tre. Già, sì, già la terza c'è un calo mostruoso. E poi Non Pago ha fatto American Dad e Cleveland Show. Cioè, insomma, dai. E poi Ted. Non dimentichiamoci di Ted. Ma l'hai visto? Cioè, a prescindere, abbiamo detto fino a mo' il cinema italiano non va criticato a prescindere. Ma Seth MacFarlane sì. Okay. McFarlane e Mark Wahlberg. Perché c'è uno spazio, Farlane. Proprio, okay. Però c'è Milan, Milan, senti a me, Mila Kunis, che non dovrebbe essere male. Kunis. Kunis. Mila Kunis. E Mark Wahlberg. Ragazzi, c'è Giovanni Ribisi. Bam. Rispetto. Ribisi. Rising. Sì. E poi il nuovo film di Jacques Audiard, Un sapore di ruggine e ossa, che stasera, cioè la sera di mercoledì 3 ottobre, quindi quando ascolterete questo podcast purtroppo non avrete più l'opportunità di vederlo, comunque lo daranno in streaming su My Movies Live, a cui facciamo sempre un'ottima pubblicità perché è un servizio veramente eccellente. Abbiamo visto anche Side by Side, che lo ripetiamo, è un film che va visto. Amico Uligano, ma non è che lo rifanno anche altri giorni? Per gli altri Side by Side? No, Sapore di ruggine. No, è un'anteprima, credo che come Side by Side, te lo becchi oggi. Io Basket. Vabbè, comunque, al di là di Un sapore di ruggine e ossa, alla fine, penso a quando uscirà il nostro podcast, ci sarà ancora Baby Call, di cui abbiamo parlato, Essential Killing, che Scogliamo. È un film notevole. Ci sarà venerdì 5 ottobre Steve Jobs, l'intervista perduta, non so se qualcuno può interessare. No. Secondo tempo di Bastianello. Vabbè, bisogna fare tutto, eh. Vabbè, no, però diciamo anche cosa fanno su Sky Cinema 007. Allora, no, senza di uccidere, dalla Russia con amore. Sì, ma quello lo paghi, questo invece è gratuito, almeno per 15 giorni. Considerando che praticamente quasi ogni sera in una settimana poi una bei film, tra l'altro da giovedì 11 c'è anche Tyrannosaur di Ferdi Cotten, di cui abbiamo parlato, sì. Insomma, quindi... No, non ne abbiamo parlato perché tu non l'hai visto. No, Tyrannosaur ne abbiamo parlato, lo ricordo. Sì? No, non è che non l'avevo... In uno dei consigli, sicuro, perché mi ricordo sta cosa di Paddy Considine, che era... Era una puntata dei film perduti, però dovevi portarlo tu, non l'hai fatto, doveva portarlo lui. E vabbè, allora cominciamo a sputare critica. No, ma io voglio chiarezza. Che tra l'altro, io, rileggendo questi giorni, non mi ricordo, una rivista, ho visto Ballata triste trompeta. Yeah. Chiedo, parlare di quello, ma quello si è proprio perso, si è proprio disperso. In meno, perché non eri riuscito a vedere non so cosa. Sì, però quello ce l'avevo. No, te l'avevo proposto e poi non l'abbiamo parlato. No, me l'hai proposto e ti ho detto di sì, però me ne sono scordato. Vabbè, ma io c'ho di no. Altro. Vabbè, questo è gli aneurismi. Vabbè. Vedete Ballata triste trompeta e Tyrannosaur. Ballata triste, invece, a proposito di James Bond, sono tutti bruttissimi, però in HD sono meravigliosi. No, perché i primi sono una pizza in HD, quei colori sparatissimi, la sabbia, i vestiti, veramente dei restauri pazzeschi. Sì, sono veramente, sembrano fatti ieri. Se avete Sky, stravedeteveli tutti e 22, anzi di più, perché ci sono anche gli apocrifi, quindi andate. L'altro giorno, e anche documentati. E anche? Ci sono anche dei documentari. Ieri ce n'era uno sul personaggio di Q, poi c'era uno su... non mi ricordo. Comunque c'è anche molti extra interessanti. Dai, non so tutti brutti però, su. No, vabbè, molti sì, ma sono inutili. E ieri... Lascia morire è brutto, dai. Vabbè, dai. Peggio del peggio. Moonraker. Eccolo. No, ieri... Così ieri sera mi stavo guardando L'uomo della pistola d'oro, che è il più bello, a mani basse, in HD, appunto, wow, Nick Nack in HD, ma ragazzi, che roba, scarama. Ad esempio, anche i due di Campbell, Casino Royale e GoldenEye, non so male. Eccolo che dico. So, yeah. Beh, dai, GoldenEye che c'ha di più? GoldenEye è bello, sono, sì, gli altri tre è terribili. Gli altri tre sono atroci, quelli con Chris Brosnan, purtroppo, perché... Ma anche quelli con Roger Moore, diciamo, sono tra i peggiori, a parte... No, beh... I più strani, cioè, Vivi lascia morire, Moonraker, sono i più... Sì. A parte poi, vabbè... Roma la pistola d'oro e Bersaglio mobile, che forse sono anche tra i migliori in generale. Ma anche Solo per i tuoi occhi è noioso, però è semplice, è molto ben fatto. Sì. Cioè, o sono brutti o sono belli i suoi, non c'è una via di mezzo. Tra l'altro, quello che mi manca, dicono tutti, almeno la maggior parte degli appassionati dicono che è il migliore, è quello di Lazenby, al servizio segreto di Sua Maestà. No, beh, il migliore, a detta di molti, è Bersaglio Mobile. Anzi, la maggior dei fan veri di solito sono per quello e per i due di Dalton. Quello di Lazenby è che è di rottura. Boh, secondo me non è tra i più belli, anzi. Però è simpatico. Ma anche Goldfinger, non è che sia così. Cioè, no. È considerato tra i più belli. Almeno tra quelli di Connery. Dicevo, avremo occasione di parlarne prossimamente, visto che comunque uscirà Skyfall il 31 ottobre, quindi immagino che ci sarà il vuoto attorno a Skyfall. E c'era Silent Hill. Quindi ci sarà il vuoto. Tra l'altro ho visto oggi il nuovo poster italiano di Silent Hill, è orrendo, è una roba alla Drew Struzan, praticamente i poster storici di Guerre Stellari, che però non c'entra niente con Silent Hill. Struzan, è francese pure lui? Eh? Siamo in... Struzan, dico, è francese pure lui? La Bruce. Aspetta, ve lo passo via chat. Tanto poi i momenti morti li taglio. Ultimo consiglio per chi è a Roma: c'è A Qualcuno Piace Classico, seconda edizione, dal 16 ottobre al 28 maggio 2013. Mazza, è tanto tempo, eh? E insomma, ci sono tante proiezioni di film classici molto, molto belli, tipo Run, tipo non mi ricordo gli altri. Se siete da quelle parti, insomma, vedere uno di quei film al cinema è sempre una gagliardata. La vedi? Non fanno le cose solo al nord. Appunto, sti stronzi, io come faccio? Tu t'attacchi. Vabbè, te li vedi in un video, te li scarichi. No. Scarichi di tutto. Capito, ma devo vederli al cinema. Che me frega di vederli? Vabbè, scusa, affitta una sala e lo metti in digitale. No, l'ho già fatto per Cosmopolis. E basta. Che? Questa volta non ero io. Sto sempre. Vabbè, ragazzi, comunque la puntata finisce qui. Salutiamo tutti quanti. Ciao a tutti quanti. A tutti quanti. Ci sentiamo per la prossima puntata dedicata a Ted e a Un sapore di ruggine e ossa. Okay. Tanti auguri di Natale. Fate l'amore, non fate la guerra. Ciao ciao. Ciao. Avete strong bold. La casa sta qua. La casa sta là. La casa dove sta. La casa sta qua.